anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, ma anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Signori, alle 7:18 minuti siamo qui alla lettura dei giornali, alla rassegna stampa di 24 mattino. Con Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli in redazione, tra poco arriverà anche Elisabetta Fusconi in redazione, poi Oscar Giannino, ci siamo tutti, quasi al completo. Siamo al completo. Allora andiamo, caro Peter. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo arrivati a martedì 28 marzo, anche marzo quasi se ne va. E allora... le aperture dei quotidiani, il Sole 24 Ore si concentra sugli Stati Uniti, il dollaro cade ai livelli pre-Trump, la valuta americana ai minimi da novembre, borse in calo, anche Piazza Affari che perde lo 0,32% ieri. Per il Corriere della Sera, lo scontro nel governo sulla scuola, questo è il titolo, scuola scontro nel governo. Fedeli, cioè il ministro, dice servono 25.000 professori, ma il tesoro frena. Repubblica, il deficit, l'Unione Europea studia lo sconto da 5 miliardi, mentre la stampa, il pressing di Renzi sulla manovra, niente tasse e no all'Unione Europea. Per il Messaggero invece sale il PIL, manovra più leggera, sono in anticipazione del documento di economia e finanza. Il Fatto Quotidiano invece prende di mira il ministro alla pubblica amministrazione Marianna Madia. Soprattutto la sua tesi di laurea, la Madia e la tesi fabbricata col copia incolla. Il lavoro della futura ministra contiene ben 4.000 parole rubate da ricerche altrui e mai neppure citate. Libero invece, scandalo all'Italia, chi spolpa la compagnia aerea, il carrozzone volante ci è costato più di 7 miliardi. E poi l'unità invece su Putin, eppure da noi qualcuno lo ama, questo è il titolo di prima pagina. Il giornale invece costretti a pagare i ladri, ingiustizia di Stato, chi reagisce alle rapine spara, finisce rovinato dalle richieste. Avvenire invece all'apertura, benedetti italiani, la sentenza per cui a Bologna... era stato impedito un incontro pasquale, invece le benedizioni fuori dall'orario di lezione con facoltà di partecipazione, le benedizioni nelle scuole sono legittime. Questa è l'apertura di Avvenire. Voglio, lo so che la notizia è di quelle terribili, ma voglio partire perché a me è da due giorni che inquieta dall'analisi di quello che è successo ad Alatri, dove un gruppo inferocito ha ucciso questo ventenne Emanuele Morganti, massacrandolo con calci e pugni in un pestaggio al di fuori di una discoteca. Sconvolge perché la motivazione questa detta dalle testimonianze sembra proprio la pura cattiveria. Sì, certo, una rissa degenerata, senza motivo, però uno spintone, forse una persona ubriaca che ha iniziato a importunare lui e la fidanzata, e da lì un gruppo che però lo ha letteralmente massacrato. Emergono anche particolari davvero sconvolgenti, finito con un colpo in testa, addirittura dicono hanno sputato sul suo corpo, cioè davvero qualcosa di terribile. Il Messaggero con Stefano De Angelis racconta che c'è una svolta, almeno ieri sera sono stati fermati con l'accusa di omicidio volontario due persone e altre misure restrittive sono in arrivo per altri due ragazzi. E le testimonianze, la fidanzata Ketty Lisi, che è intervistata sia dal Messaggero sia dalla stampa, dice «Mi hanno strappato via dalle mani il mio amore, eravamo lì al bancone». Quando a turno in due, un italiano e un albanese, hanno cominciato a infastidirci, continuavano a dargli spintoni finché Emanuele è sbottato dicendo «E mo basta!» E lì è iniziata la discussione, l'hanno portato fuori e da allora è successo appunto questo gruppo, tutti contro di lui. Sono 9 gli indagati, fa sapere il Corriere della Sera, e parla anche il fratello di Emanuele, si chiama Francesco Morganti, intervistato da Corrado Zunino a pagina 14 di Repubblica. Ce l'ha anche un po' con gli amici, erano in tre con lui, ma uno solo lo ha difeso. Emanuele, da quanto ho saputo, era lì con la fidanzata, al bancone, al bar, l'hanno provocato, l'hanno spinto, l'hanno fuori dal locale massacrato. L'hanno finito con una sprangata in testa, è stata un'esecuzione, alla fine hanno anche sputato sul suo corpo. Si spiega tutto questo in un solo modo, cattiveria gratuita, non c'è bisogno di andare lontano. Ovviamente tutti raccontano anche un po' dell'omertà del paese, della difficoltà di cercare di capire che cosa sia successo. Sono davvero sconvolgenti le testimonianze, anche dell'amico e testimone che dice: ho provato a salvarlo, l'unico che si è buttato in qualche modo sul suo corpo per cercare di proteggerlo dai colpi che arrivavano da tutte le parti, e anche lui dunque ha subito graffi, lividi, colpi, e dice: sembravano belve, ho fatto l'impossibile per salvare il mio amico, ma non c'è stato nulla da fare, scalciavo, cercavo di tirarlo dalla mia parte, ma mi hanno riempito di botte. Davvero una storia che mette molta angoscia, e per questo che io voglio in qualche modo, se volete, contrastarla con questa storia che invece ho trovato sul Manifesto, diciamo c'è su vari giornali, ma il Manifesto dedica una pagina a questa storia, che è una storia con un lieto fine, forse ce n'è bisogno oggi. Alfredo Marsala racconta una storia di migranti, è la storia della piccola Umo, fuggita dalla Costa d'Avorio, da dove la mamma l'ha portata via perché era destinata altrimenti all'infibulazione, una pratica che purtroppo è molto diffusa in quel paese. E che cosa è successo? Dopo 4 mesi la piccola Umo ritrova la mamma. È una vicenda raccontata dal Manifesto che inizia quando madre e figlia fuggono dalla Costa d'Avorio alla fine dell'anno scorso, perché i familiari appunto intendono sottoporre la bambina all'infibulazione, e dunque la mamma fugge in Tunisia. Dopodiché la mamma, lasciando la bambina di 4 anni a un'amica, dice: devo tornare un attimo in Costa d'Avorio per prendere gli averi e trasferirmi nuovamente e definitivamente in Tunisia. La mamma torna dunque in Costa d'Avorio, lascia la bambina con un'amica, e questa amica nel frattempo trova la possibilità di imbarcarsi su una barca per andare verso Lampedusa, per andare verso un nuovo sogno, e non sapendo cosa fare porta con sé la bambina. La barca naufraga, si salva la bambina, ma l'amica in qualche modo si disinteressa di lei. E quindi questa bambina, Umo, viene accudita dagli operatori, che si chiedono: ma chi è, da dove proviene, dove sono i suoi genitori, saranno morti, saranno sopravvissuti. Alla fine arriva a Lampedusa un'altra bambina, 8 anni, si chiama Nassad, viene dal Mali. E quando arriva al centro di Lampedusa vede la bambina di 4 anni e dice: Umo! Esclama questa parola. Lo stupore è immenso. Gli operatori chiedono a questa Nassad: ma come fai a conoscere la bambina? E Nassad ricorda questa bambina, Umo, per averla incontrata a Tunisi. E addirittura la mamma di Nassad ha ancora il cellulare della mamma di Umo, che a quel punto viene chiamata, risponde dalla Costa d'Avorio e stupita e incredula scoppia in un pianto a dirotto, perché scopre finalmente che la sua bambina è viva. E ieri la riunione, si sono riviste. E dopo 4 mesi la piccola Umo ritrova la mamma. C'è anche questa foto che ha fatto il giro del web e che in qualche modo racconta una storia di migranti davvero, beh, con un lieto fine, finita bene, e la trovate raccontata oggi sul Manifesto. A proposito di migranti, invece, che cosa ti vuole combinare un sindaco della Lega Nord? Per la precisione a Pontinvrea, in provincia di Savona. Lui si chiama Matteo Camiciottoli e ha deciso con una delibera sindacale di far pagare coloro che accolgono i migranti come se fossero delle attività ricettive alberghiere, e quindi paghino la tassa di soggiorno, tasse come gli alberghi a chi ospita i profughi. bufera sul decreto del sindaco di Pontinvrea Lanci, cioè l'associazione dei comuni, ha già detto è una inutile butade che non potrà mai essere applicata. Il Secolo XIX racconta questa storia a pagina 6 con la provocazione del sindaco della Lega e dice: l'accoglienza è un business e allora io faccio pagare la tassa di soggiorno. Va bene, siamo però all'articolo che mi fa pinzore della giornata, quello da Mani sul Volante. Da qualche giorno il quotidiano Il Giorno, per l'appunto, quotidiano nazionale, l'edizione del Nord, Il Giorno, si concentra sui privilegi dei politici, insomma, le solite questioni, i vitalizi, eccetera. Oggi viene intervistato da Rosalba Carbutti a pagina 3 un ex deputato dell'Assemblea regionale siciliana. Si chiama Salvatore Caltagirone. Lui ha fatto cinque sedute dell'Assemblea regionale siciliana. Cinque. E con questo ha maturato un vitalizio da 2.000 euro netti. 2.000 a vita. Cinque sedute, 2.000 a vita. Onorevole Caltagirone! Non le sembra uno scandalo? Ma lui si difende così: guardi che io ho pagato i contributi di tutta la legislatura, dal 96 al 2001, quindi ho versato 5 anni di contributi per avere questi 2.000 di vitalizio. Sì, ma lei ha fatto solo 5 sedute. Ma cosa c'entra? Io ho contribuito come se avessi partecipato a 500 sedute. Comunque sono stato utile perché in quei 3 mesi, 5 sedute, abbiamo fatto una norma che prevedeva di usufruire del vitalizio solo chi era deputato regionale per almeno 2 anni e mezzo. Avete capito? Lui lo è stato per 5 sedute, ma è intervenuto per gli altri. Sì, ma perché lei non dà l'esempio e restituisce il vitalizio? Io? Mica sono fesso. Perché dovrei rinunciare solo io? Ma guardi, Crocetta ha detto che ora i vitalizi li abolirà, e qui scoppia in una risata l'onorevole Caltagirone. Io a Natale non ho mai visto i tacchini festeggiare, sarà una farsa. Ma è bellissimo, perché lui proprio, ma ancora dice: ma perché lei non rinuncia a questo vitalizio? Senta, a Milano si direbbe sei un pirla, qui in Sicilia molto peggio di un minchione. E così, evviva, pensione a vita dopo 5 sedute, me la tengo, non sono mica fesso. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Yuai, l'unica frase fatta d'ome di vocale, se tu sei smonti tradusla tu puoi deslei tutte le notizie che tu vuoi, mande. Va bene, è tutto a posto, è tutto chiaro soprattutto. Cari ascoltatori, eccoci qui a continuare la lettura dei giornali con la manovra, ci siamo, perché siamo vicini alla composizione del DEF, il documento di economia e finanza. E sono, come scrive Alessandro Barbera insieme a Fabio Martini sulla Stampa, a pagina 5, sono le prime vere forche caudine del governo Gentiloni che si stanno avvicinando, infatti mancano 2 settimane. E allora questo prefigurerà ovviamente la mega manovra autunnale per il 2018. E che cosa si prevede? Per la Stampa c'è il pressing di Matteo sul Premier. Quando si parla di Matteo ci si riferisce a Renzi. L'obiettivo, tra l'altro, è avere uno scontro dall'Europa di 10 miliardi. Il punto principale è anche quello, dal DEF, di far restare fuori il rialzo dell'IVA del 2018, previsto nel 2018. Come racconta anche Repubblica con Alberto D'Argenio a pagina 3, ora Bruxelles prepara lo sconto con un bonus da 5 miliardi nella finanziaria. Che cosa si prevede? La conclusione delle trattative con l'Europa non potrà che arrivare a settembre, ma al momento è previsto che Roma debba correggere il deficit strutturale con un intervento del valore del 0,6% del prodotto interno lordo. Padoan, col sostegno della Commissione, potrebbe riuscire a ottenere dai partner un dimezzamento della manovra di ottobre. In ballo ci sono comunque 5 miliardi. Nel 2016 l'Italia ha beneficiato di 19 miliardi di flessibilità sul consolidamento dei conti, mentre quest'anno lo sconto sarà di 7 miliardi. In ballo c'è la questione dell'IVA. Lo scorso anno l'Italia di Renzi si era impegnata a alzare l'IVA di 19,2 miliardi se non avesse risanato il deficit, le famose clausole di salvaguardia che però le autorità europee non prendono più seriamente. Renzi più volte ha ripetuto che non verranno mai attivate, che l'IVA non salirà. Per questo Bruxelles prevede che il deficit strutturale nel 2018 salirà dello 0,5%, cioè di 8 miliardi e mezzo. Questo buco, a cui si aggiunge la richiesta di aggiustare dello 0,6% del PIL, dunque altri 10,2%, e quindi ecco che i conti sono presto fatti. Certo, sono numeri che cominciano a uscire sui giornali. Bisogna capire come poi la partita anche con l'Europa si giocherà nei prossimi mesi, ma si comincia a entrare in quest'ottica il documento di economia e finanza. Mentre, signori, io comincio a pensare che il ministro Poletti in qualche modo lo faccia anche un pochino apposta ogni tanto per attirare l'attenzione, perché come titola il giorno ha avuto la ricaduta. Sapete che già c'era stata la polemica un po' di tempo fa quando aveva detto sui cervelli in fuga, gente che è andata via dall'Italia, che ce n'erano alcuni, ne conosco alcuni, di cui l'Italia fa veramente a meno e se ne stiano fuori dai piedi, ha detto, disse Poletti, poi chiese scusa, cioè si parlò di possibilità di dimissioni. Ora l'ha ricombinata, nel senso che è andato in un istituto davanti a qualche centinaio di studenti, l'Istituto Manfredi Tanari di Bologna, e ha detto, a richiesta su come si trova il lavoro, insomma, di fronte a giovani che ovviamente guardano anche al mercato del lavoro, in pratica ha detto che il rapporto di lavoro è prima di tutto un rapporto di fiducia. È per questo che lo si trova di più giocando a calcetto che mandando in giro dei curriculum. Ora, già siamo, io dico, io posso capire il senso della frase che poi Poletti ha cercato di spiegare, definito già gaffeur anche dal Messaggero. È quello di dire, ma insomma, cercate di avere appunto rapporti di conoscenza, stare insieme, ma tutto questo è giusto, ma depotenziare così il senso del curriculum, no? Il senso che, voglio dire, non è che in un pezzo di carta c'è scritto tutto, ma in quel curriculum c'è un po' il senso di quello che uno ha fatto, il percorso, la vita, gli studi, il senso della meritocrazia, ho studiato, ho preso un master, non l'ho preso, sono andato di... E invece dire no, conta più giocare a calcetto, cioè dava da un po' l'idea, l'impressione che siamo il paese dell'aiutino, della conoscenza, conosco il cugino, conosco l'amico, conosco quello che mi dà una mano, piuttosto del ho studiato, ho fatto. Sta di fatto che, ecco, su tutti i giornali, Poletti, calcetto più utile che mandare curriculum. E certo, perché poi questo favorisce i titoli, che poi magari il concetto non era questo che voleva esprimere il ministro, ma vedete qua, libero, calcetto meglio del curriculum, così il ministro cerca lavoro. Il Corriere, pagina 2, Poletti, il curriculum funziona di più giocare a calcetto. E va bene, andiamo avanti così. A proposito di ministri, c'è, secondo il Fatto Quotidiano, un problema con il ministro Marianna Madia, ministro della Pubblica Amministrazione. Laura Margottini racconta in questa inchiesta, pagina 2 del Fatto Quotidiano, Madia, dottorato con 4.000 parole copiate nella tesi. Scrive il Fatto, la tesi di dottorato di Marianna Madia, ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione, non pare essere frutto tutto della sua creatività. In 35 pagine su 94 della tesi, ci sono passaggi pressoché identici a quelli presenti in altre pubblicazioni. La fonte di quei passaggi non risulta citata, laddove il ministro li riporta nella sua tesi, col risultato che spesso non è possibile distinguere le parole originali della Madia da quelle di altri autori. Da un'indagine del Fatto risultano essere circa 4.000 le parole senza chiara attribuzione nei 3 capitoli della tesi. Ci sono poi tutte le tesi. La tesi, diciamo, che viene messa con delle foto, si parla di passaggi da altri libri, da altre fonti non citate. Insomma, l'accusa è: ha copiato parte della tesi. C'è un altro ministro con qualche problema, almeno questo fa sapere il Corriere della Sera. Problemi interni in questo caso, perché il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli ha scritto 3 lettere al ministro dell'Economia Padoan e al premier Gentiloni per chiedere garanzie sui fondi destinati alla scuola. Ecco che allora il Corriere titola Fedeli contro Padoan, scuola basta ritardi. In queste tre lettere il ministro Fedeli voleva essere sicura che i fondi stanziati nella legge di stabilità dello scorso anno per allargare l'organico di diritto della scuola, cioè aumentare il numero delle cattedre, fossero utilizzati. Ma siccome non c'è alcuna risposta, ora il ministro Fedeli dice: caro Piercarlo, cioè ministro Padoan, questo ritardo è inaccettabile. Ormai non riusciremo a partire in tempo per settembre del prossimo anno. La colpa non è certo nostra, ripetono al Ministero dell'Istruzione. Questa pagina 3 del Corriere. C'è un altro ministro, oggi è la giornata dei ministri, che invece prende carta e penna, è un ministro tecnico, è il ministro Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico, che prende carta e penna e scrive una lettera a Repubblica. Perché ieri abbiamo raccontato che Berlusconi punterebbe a Carlo Calenda, definito un moderato, come possibile candidato di centrodestra, mentre Carlo Calenda fa il governo un governo tecnico, ma è un governo di centrosinistra. Ebbene, Calenda scrive a Repubblica: non conosco Berlusconi né intendo candidarmi. Bolla come fantasioso il racconto di ieri, un racconto fantasioso particolarmente pronunciato, dal momento che non ho mai avuto il piacere di conoscere o anche solo di parlare col presidente Berlusconi. L'unico obiettivo che ho è fare bene il ministro dello sviluppo economico e a meno di un anno di distanza dalla mia nomina sono ancora lontano dall'averlo conseguito. Sono e rimango dunque un tecnico, qualifica che non va particolarmente di moda nelle ultime settimane e non intendo candidarmi. Così Carlo Calenda. Va bene, a proposito di ministri, abbiamo anche noi il nostro, il ministro all'informazione, Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Buongiorno. Volevo dirti, Lorenzo, non so perché cercava il decimo per il calcetto un attimo fa, Lorenzo sì, Nespoli, sì. Il tuo assistente. Poletti. Non so, no, ha detto che Poletti già c'era. Ah, ok. Dice se puoi venire tu, non poteva dire. Importa, però importa tu. Vabbè, importa. Senti, hai carta e penna anche tu come ministro Calenda invece? Ecco, allora prendi nota perché domani con il Sole 24 Ore c'è un volumetto, o se preferisci instant book, sui bonus per le imprese. Ottimo. Cioè gli sconti fiscali per le imprese, ad esempio i super ammortamenti, il maxi ammortamento, ecco, quelle cose lì le abbiamo raccolte in un volume. Domani con il Sole 24 Ore tu ti rechi in edicola, non venire a cercarmelo come al solito al bar. Ma ti rechi in edicola, lo puoi ritirare lì insieme al Sole 24 Ore. Questo domani, attenzione. Sì, vabbè. Invece oggi è martedì, quindi martedì. Oh, bravissimo. Ma che succede in condominio quando il condominio medesimo non paga le bollette? E dipende se è la bolletta del gas, la bolletta della luce, ci sono orientamenti differenti. Allora tu puoi leggere tutto ciò sulle pagine di norme e tributi, quindi religiosamente prenderai queste pagine e vedrai appunto nella pagina di condominio le risposte. Poi c'è anche un'indicazione per quanto riguarda l'abolizione dei voucher, quindi i condomini che usavano i voucher dovranno adesso orientarsi su altri tipi di strumenti. Molto altro, ma ti voglio solo dire con le parole del poeta, caro Milan, aprile è il mese più crudele, come è noto, perché non c'è solo la preparazione del DEF, ma poi ci sarà la manovrina. Allora, oggi sul Sole cerchiamo di capire, ci sono dei contributi dove si cerca di capire che cosa andrà nel DEF, e quindi poi se ne parlerà in autunno, e che cosa invece arriverà da subito con la cosiddetta manovrina. Vedremo come poi il tutto si comporrà, abbiamo ancora qualche giorno per pensarci, soprattutto perché entro il 31 marzo, sì. 31 marzo che è venerdì, stai scrivendo? Sì, che guarda. Oh, entro il 31 marzo sappi che puoi scegliere la e-fattura, che non è un e la fattura, è la fattura elettronica. Ah. La fattura elettronica scelta per opzione ti dà dei vantaggi, leggi su Sole 24 Ore di oggi. Così c'è un confronto tra chi sceglie e chi invece si vedrà imporre la fattura elettronica. È un tema che sta parecchio turbando i sonni, specialmente dei professionisti del fisco. Molto altro ti vorrei dire, ti segnalo solo che sulla TAP, presente il gasdotto, com'è il TAP, no? C'è stato un pronunciamento del Consiglio di Stato, ha detto va bene così, si va davanti. Adesso dovrebbe parlare il Ministro dell'Ambiente, il tutto nelle pagine di Imprese e Territori che tu leggerai scrupolosamente. caro Alessandro, tutto ciò premesso. Traffico! In da chillu palazzo ci stanno tre cave carapazza, una cave carapazza qua, una cave carapazza là, una cave carapazza a mezza. C'è bisogno che vi dica che dialetto è? Ciao Ale! Secondo me Napoli è da quelle parti, adesso poi non so se è proprio Napoli, adesso non vorrei suscitare una guerra in Campania, però insomma io direi Napoli. Tu Peter Bescapè cosa dici? Napoli, Lorenzo Nespoli, Napoli. Salerno, perché Salerno? Fai così per creare così, è un diversivo, Salerno. Va bene, allora, la politica, c'è un caso firme per Raggi, questa almeno una denuncia di Alessandro Onorato della lista Marchini, finita sulle Iene, accusato di una raccolta firme per la candidatura di Virginia Raggi fatta, dichiarata il 20 aprile, ma poi in realtà fatte le firme raccolte il 23 aprile. Insomma, è una questione politica che vedremo se si sviluppa, così come si sviluppano le dimissioni di Minzolini. Minzolini secondo me si sta divertendo tantissimo, soprattutto a prendere in giro quelli del Fatto, che tutti i giorni gli chiedono allora è oggi il giorno delle dimissioni, e Minzolini diciamo alle 2 del pomeriggio dice mi dimetto, alle 4 ci ripenso, in serata non ancora, lo farò quando quelli del Fatto smetteranno di dirmi che devo dimettermi, perché non devo dimettermi, lo farò sì, ma se me lo dicono loro no, e continua questa commedia. La giornata di Minzolini da quasi dimesso, oggi Tommaso Labate sul Corriere della Sera, pagina 9. Va bene, non si è ancora dimesso. Allora, invece, cosa succede in Russia? Beh, in Russia succede che Navalny, l'oppositore di Putin, il blogger, è stato condannato a una pena pecuniaria molto lieve, credo 300 euro, però a 15 giorni di carcere. E tra l'altro Navalny che cosa ha scoperto? Oggi l'articolo più interessante è quello di Pietro Del Re su Repubblica, pagina 7. Grazie a un piccolo drone, a un paio di scarpe da jogging comprate online da Dmitry Medvedev, cioè il premier russo, grazie a questi due particolari il blogger anticorruzione Alexei Navalny ha confezionato il suo pesante atto d'accusa contro il premier russo. L'inchiesta, durata mesi, raccontata in un video diffuso su YouTube, parte dall'acquisto in rete di Nike colori psichedelici che Medvedev indossa in diverse occasioni. In questo video, visto da 11 milioni di persone, e da questo video sono nate le proteste poi in diverse città russe, Navalny in manica di camicia in 50 minuti svela con prove inconfutabili, questo dice lui, l'elaborato sistema di tangenti e corruttele che avrebbe consentito al premier Medvedev di acquistare ville, barche di lusso, pregiati vigneti, come la fattoria, una fattoria nel Chianti. E da qui le proteste e poi le manifestazioni non autorizzate, quindi gli arresti. Certo, come scrive l'Unità, molti in Italia sono pro Putin, per esempio Salvini, per esempio Libero, Putin ai russi ha fatto solo bene, questo è il titolo di Libero di pagina 5. E ci si divide su questo. Ragazzi, intanto, mentre ci si divide su questo, in Turchia c'è un'altra situazione di repressione netta. Oggi il Corriere con Monica Ricci Sargentini giustamente torna su questa vicenda. Pagina 6, a Istanbul c'è un processo alla stampa per terrorismo. Pensate, lo chiamano il processo al braccio mediatico di Feto, cioè l'organizzazione considerata terroristica in Turchia che farebbe capo a Fethullah Gulen, il predicatore islamico rifugiato negli Stati Uniti. In questo processo ci sono 29 giornalisti che rischiano accuse fino a 15 anni di prigione e che sono accusati di terrorismo, ma nelle 196 pagine redatte dalla procura, fa notare il Centro per la Libertà di Stoccolma, non c'è un singolo episodio di attività criminali, ma solo articoli, notizie, messaggi critici su Twitter. Alla prima udienza erano presenti 27 dei 29 accusati, 2 sono latitanti. D'altronde la Turchia, fa sapere il Corriere, è il paese col maggior numero di giornalisti in prigione, 150 secondo diverse associazioni per i diritti umani, ma il presidente Erdogan continua a ripetere che sono criminali. Sono tutti ladri, pedofili, terroristi. Così ha detto. No, giusto per capire la Turchia e noi l'Europa. Va bene, che dobbiamo dire? C'è qualcosa di più leggero, non lo so, di cronaca? Vabbè, mi ha colpito questo, e cioè che secondo l'Europa non è vero che noi siamo coloro che stanno di più ai fornelli. Basta Italia, bel paese dove si mangia pizza suonando il mandolino e con gli spaghetti. Siamo superati da inglesi, francesi e tedeschi per il tempo impiegato in cucina. Ma siamo i primi per attenzione all'etichetta, al gusto e alla compagnia. Quindi ci piace mangiare bene, ma non è vero che passiamo gran tempo. Passano più tempo in Inghilterra, chi l'avrebbe mai detto? Si mangia in maniera orrenda invece in Inghilterra, in Francia, in Germania, rispetto che all'Italia. Si passa più tempo a cucinare. Vabbè, ma siamo dove? Alla Carta Costa, articolo più inutile scovato sui giornali, ecco, lo faccio vedere anche in diretta sulla mia pagina Facebook, sul profilo pubblico Facebook. Il caso parte dalla messa al bando sul volo United dell'uso dei leggings nei confronti di due persone, non so perché, e Peter dice, vero, vero, questa l'ho letta, questa notizia bomba l'hai letta ieri. E allora il Corriere della Sera con Daniela Monti fa una pagina dedicata ai leggings, istruzioni per l'uso, quando si possono utilizzare i leggings, come si devono utilizzare i leggings, qual è il dress code per i leggings. Ma chi se ne frega!